guardi il sole e dici che il ricordo più non c'è di un aprile ormai lontano, di un aprile troppo lontano. Guardi la luna e dici che il tuo amore più non c'è. E ti chiedi ancora perché il suo cuore batteva per te. Il suo cuore batteva per te. Il suo cuore batteva per te. Ricordi confusi, ricordi sospesi. Sono immagini sfocate. E quelle mani sempre nuvole e dici che il tuo sogno più non c'è. Ora resta solo il sapore di uno strano frutto senza nome. Guardi il mare e pensi che la tua vita in fondo cos'è? Forse come la sabbia mangiata dalle onde, forse come il rumore creato dalle onde, forse come il rumore creato dalle onde. Dentro mondo.